ed è così che gliela spaccò. Cadio, vabbè. Sul binario 10 o sul canile o sul canale. Tutti offesi, sono Massimiliano. Aspetta, via, che è avanti? Ti ho detto, aspetta, che ho il telefono. Ah, non vorrei vedere ancora, gatto, ma vedi, l'elicottero lì su drone, certo. Infatti, allora, uno con la radio si chiama sommergibile, allora guarda che si chiama, la gente che attacca lo drone. Ma una bestia, Massimo, Avevi ragione, una bestia, una cosa allucinante. Stamattina c'era un amico di Alghero, mi ha detto, ma sei ad Alghero? No, Alghero, a chi? Baracchino faccio Alghero. Già c'era a casa Alghero, Fertiglia, ma non ne ho io mai avuto un baracchino. Perché? No, perché sei solo 9,25. E cosa vuoi che sia? Quello che chiedeva, La schirrigia, come dicono Alghero, così. Vabbè, lasciamo stand by, Massimiliano. Sto usando questa. Capito? Posso anche usare il Galaxy con la potenza normale, ma il Galaxy è pronto da combattimento. Va bene. Avanti, chi c'è? Luca, no, ho sentito Luca, ho sentito nel primo pomeriggio su WhatsApp e poi per indaffarato c'era gente, quindi ho mollato tutto, ho abbassato il volume, no, ho visto che non c'erano altri messaggi, non so se qua, Luca qua sì. Come sei giocherelli Arturo? Vabbè, se vuoi continuare a ridere, ridia. Va bene, ok, ma è morticciato lui. Ma è preciso identico a quello che hai tu. Sì. Ascolta, mi stavi dicendo, l'alimentatore che c'hai tu, quanti volt ci dà? No, questo è più di 29. E invece questo che ho io, quanto arriva? 27. No, quello che c'è tu è 28,7, 28,8. Ehi, vabbè, dai, più o meno. Sono Massimiliano, ho un bel di paura a dare qualche watt in più di ingresso al Galaxy, ma un bel, mamma mia, infatti l'ho lasciato a 5 watt, modulati 7, picco di 7, non lo sollevo di più. Cazzo, non ci credi, tu ridi, ho paura, cazzo. Ho paura, Massimiliano. Ma lo sai, con quel wattimetro che conosci tu, ho fatto prima il flash, ho detto, ho fatto bene la calibrazione. Cazzo, buono anch'io, wattimetro che ho ascoltato. Ma da te mi sono sbagliato, ho fischiato e ha già mai fatto l'arco. Appunto, no? Cazzo, il scarocchino fatto se fischi in mano laterale picchia di più, si incolla al lago. Invece in AM è quello che hai detto tu, dirà a tutti, ma cazzo, non è che ci ha portato a fare i batti di Rodrome. Vabbè, ma quello già si può fare, già c'è un rimedio per quello, capito? Dobbiamo di lontano già tutto. No, ma ci vediamo, perché adesso è in stand by, no? È acceso, il vento non lo senti, vedi? Perché girano piano il vento, sono silenziosi. Quando schiacci la portante accelerano. Mamma di lui! Era una materia del vicinato. Che cosa hai acceso? Niente, l'elicottero si è messo in moto. Vabbè, così è. Sì, quello è il massimo dell'RM Italy con la 320. L'altro medio è quello a 2 e poi c'è quello a 1. Sì, chi è? E cosa hai combinato, Dani? C'è Massimiliano Bulldozer con me. Caspita, Santiago 7 stai arrivando. E cosa hai combinato? Ehi, moltissimo! Santiago 7 non ristavo stai arrivando. Prima mi arrivavi 4. Si è scambiato la stazione, scusa Massimiliano che saluto a Dani. Si è cambiato la stazione da giù a su si è andato più in alto, quindi adesso chiaramente esce più forte, capito? No, io sto andando con un vecchio 23 canali, un 294 della Inuit, pensavo che non mi sentivi. No, Massimiliano Bulldozer, lui è nella piana di punti. Vediamo un po' se riesci a sentirlo. Santiago 8 è un ottimo segnale, me l'hai dato una volta, poi mi hai detto sempre leggermente più basso, 8 è ottimo. Vedi, quando ci vogliono i forti in radio non ci sono mai, entrano solo a fare gazzosa. Avanti Massimiliano, lo senti a Daniel Oristano? No, claro, lo ascolto io. Hai sentito, da? Sta parlando, sa? Sì, lo so che ti dispiace. Lo so che ti dispiace, io ce n'è gente che potrebbe arrivare lì, dalla mia zona, ma abbiamo già fatto la prova e non li senti, quindi non li senti. Aspetta, Santiago 8 è un ottimo segnale veramente, ci picchia, molto bene, molto bene. Gappa, Massimi, no, non sente manco la portante, pensavo almeno dalla piana lì, della spunta, se riuscissi a sentire qualcosa, invece non sente niente. Aspetta, dille se mi ascolta così. Ciao Daniel, buona sera, dai, se mi ascolti, non so se mi sta ascoltando, però fammi un po' la fonte, clave un po'. Aspetta che ha parlato Massimiliano. Oh Daniel, vediamo un po' se lo senti così, poi mi ripassi il numero di telefono. Vai Massimiliano. Ciao Daniel, buonasera, non so se mi stai ascoltando, comunque ti saluto, dai, io non lo ascolto. Hai sentito? Ce la fai, cazzo, porca puttana. Aspettato, sta chiudendo. No, non ne ho più barra amatoriale, Daniel, assolutamente, solo baracchini, non c'ho manco più le V e le U, altrimenti avremmo fatto una prova, capito? Non c'ho più niente, ho dismesso tutto quella parte lì, capito? Mi farebbe piacere, però purtroppo non ho più niente. Mi dispiace che non senti Massimiliano, perché c'è una bellissima zona, solo che nella piana delle punti e arrivare ad Oristano è un po' un casino, magari c'è altre zone molto, molto favorevoli, ma è un casino, capito? Vabbè, comunque sarà per la prossima, dai, non c'è problema, ok? Le sto mandando un audio a Massimiliano, così sente i tuoi saluti. Ciao Daniel, un abbraccio grande come sempre, grazie per essere entrato a salutarmi. Cosa ti devo dire? Mi dispiace che non ci siano altri colleghi qua da Sassari che possano fare QSO con te, ok? Un abbraccio, ciao, buon fine domenica. Gappa, ciao anche a te, ti saluta Massimiliano, riprendi. Sì, faccia il saluto, chiaro, io purtroppo devo usare un casino arrivare lì. Hai visto come arriva? Sì, ho visto. Giusto per non dire che magari qualcuno pensa che racconto balle. Gappa, non lo so se... Se lasciamo, se trasferiamo tutto in mansarda, mi mostro già la radio sopra, chiusa, chiave. Bravo, già. Ma ci ti sto ascoltando, prova col Galaxy quello là, dove il segnale se cambia. È ovvio che cambia. No, non me lo fa attaccare al drone, dai, lasciami con questo qua. Lui se stasera dobbiamo fare qualche prova, ma le abbiamo fatte stamattina un po' le prove. Io, Tino e compagni, dai. Ma già mi è bastato quello che mi ha detto Tino, e qui mi ha detto Rubi d'Alghero. Mamma mia, l'ho messo. Vabbè. Faccio un pensiero su quello. Un pensiero con Lucia Labbra mi posso fare io, se ti accontenti. Allora, ti volevo dire, su quello lì, AM ingresso massimo 10 watt e l'SSB 15, capito? Io vedo, Gianni, sto dando, sono 4, 5, 6, con picchi a 7, 8. Ma di portante muta 10 watt. Non vuole. E se da 10 va a 15 cosa le fa? Vabbè, tu non dai le 10, dai le 8, dai le 7. Ah, ho capito, ma posso aumentare ancora di 3 watt. Posso aumentare da 6 e 3, 9, ne do là. 7, 8, là. Di 2 watt posso aumentare. Perché poi c'è il picco maledetto di modulazione, se capito. Non voglio, mamma mia, questo. Più mi abbaglio un drone, cioè più mi abbaglio più ci assomiglia un drone. Tagliere d'acqua, tagliere di punta. Ebbè, dobbiamo fare. Ciao, ca. Ciao, sono in compagnia di Massimiliano. Avanti Massimiliano. Ciao Claudio. Claudio, sì, senti a me. Ciao Brofè, buonasera, ben entrato. Gianni, volevo dire 537 euro, però è quello rosso, è il modello vecchio qua. Quello è in alluminio e costa leggermente di più. Grazie. Sì, sì, quasi 700 costa. Avanti Brofè. Cosa state trafficando? Sempre trafficando state. Adesso qual è il giocato nuovo? Non so, se vuoi te lo mando, si assomiglia a un drone. Manda. Ma cos'è? Mandrone? Sì, mandrone a vero, eh. Vero Massimo? Sì, abbastanza. Io già non è sei mandrone, io. Lo guardo da tu giù. Riprendi già, che sto cercando il tuo profilo che te lo mando. Lei, stavo riordinando la roba qua, ho trovato la scatola del baracchino e ho visto che c'era il microfono originale dentro e ho provato ad agganciarlo. Sto uscendo con il mic originale della radio, come va la modulazione? Bene, non c'è problema. Bene, guarda che te l'ho mandato, io ve l'ho fatto, mi ha mandato Massi. A me piace un bel questo, Massimo, vediamo. Forse questo verde che si addice molto, Ma già te la do a provare, vai, Claudio, insieme a quello lì, due belve sono. Ah, è vero, sì, da attaccare a quel microfono normale anche, non c'è problema. Sì, allora, lo microfono normale, le ventole lo sento più. Sì, lo proviamo. Non è male, la maggiore amplificatore, cazzo, quello nero, anche stamattina, questo, collegato, ho il B300, niente. Nulla da fare, 45, sul canale 45 è tutto morto. Io se mi fa parlare verso giugno, luglio, quei 3-4 mesi ti diverti, attaccato, se non ti avete preso a fare la mamma, attaccato, se non c'è l'accordo, è un già. No, ma non ha detto altra parola, già me lo prendo uno di quelli modificati, come dico io, che scrive già forte con questi amplificatori, fate la bubù a volte. Però Massimo te l'ho detto, cioè io non lo posso usare, perché tutte le volte che l'ho usato, sempre qualcosa mi hanno detto, ma io non disturbo nessuno, capito? Con quelle radio lì invece disturbo chi gli entra nel computer, chi gli entra nel telefono, e quindi non voglio rompere le palle. Però in periodo estivo c'è poca gente qua, capito? C'è tutti la casa al mare, in campagna, qui e là, si svuota, e quindi ricudimo la giucciola. Ciao, buonasera, voglio sentire la tua voce calda di quelle prima di spalle con il ecco. stavo guardando il drone di Claudio. Hai visto, si assomiglia a un drone, no? Sì, un drone trielica, dai. Poi te lo faccio sentire, è comodo la radio, perché non è questa, è collegato su questa, è collegato su un Galaxy. Questo non è il Galaxy. Se voi te lo fa sentire, come parte, a un momento accelera, quando schiacci la portante accelera, muove in moto e si solleva. E quindi con una mano usi il telecomando del drone, con l'altro il microfono. Allora, tu come ti dici, fate? Esatto, dalla cadena, Claudio. E non devi guardare la finestra. Come fai? Guarda questo invece, vabbè. Che elicottero, un elicottero. Questo è monoelica però, Massimiliano. Anche l'elicottero. La sua povera fa chiudere. Allora, mamma mia, molto ti sto arrivando. Altro segnale. Ehi, quasi a fondo scala, sì. Già lo sai che lo strumento di questa radio è particolare. E sugas, mi va da troppo ridiamo. Mia Daniel, sì dimmi Daniel, ehi, ascolta, guarda che ho cambiato radio, adesso c'è l'elicottero attaccato, il segnale è salito, mi viene da ridere, ma se lo ripete ti mando l'audio, la radio Super 5, si sente un fruscio sotto il segnale 9. Cioè arrivi 9 orizzano, allucinante. Più forte di 9. Cioè a livello di un tuo paesano sta arrivando, che ti arriva da Orizzano Santiago 9. Vabbè dai, questo non è un giocattolo, non ho WhatsApp, se no ti avrei mandato la foto. Sono contento comunque che si possa trasmettere a questi livelli. Va bene, va bene. 9 con picchi positivi a quasi 9,5. No, sicuramente qualcuno lì a Oristano che si è messo assieme a me, capito, quindi non capivi niente. Va bene Daniel, dai, che c'ho due amici qua a Sassari che non ti sentono, se no facciamo ping e pong. Era giusto per fare una prova con questa cosa nuova, ma va bene, va bene. Ti risaluto allora di nuovo, ciao, ti saluta anche Gianni Rubrefetta. Purtroppo è così. Ciao Dani, ciao, grazie. Avanti, numero 3. Ehi, ehi. Vabbè, è un po' lontanuccio l'istano, dai, per me, quindi va bene così. Oh, yeah. Avanti, Massimiliano. Orizzano Scaglia, Orizzano Sasso, lo lasceranno almeno 100 km, minimo. Poi bisogna vedere dove è lui, la posizione sua, capito, tante cose. Ma anche lui comunque dovrebbe avere una buona posizione. Vabbè certo, noi siamo più in basso rispetto a Claudio, quindi siamo meno favorevoli, dai. Sì, io sono tornato con l'Inuit, era giusto per farti sentire il drone. Asciugato c'è Daniel, asciuga. Ma io sono sicuro qua, se metti il microfono normale lì tutta quella cosa di vento non sente più. No, non si sente, l'ho fatta stamattina con continuo la prova. E ti dirò che già il microfono al gas va bene normale, però quando sono agganciato aumenta ancora di più la radio. Con il microfono normale? Ehi, se vuoi te lo faccio risentire. Fammelo sentire con il microfono normale però, giusto per vedere la differenza. No, poi non satura niente. Satura, cosa vuol dire satura? Ora il satura è molto. No, non satura, giuditto. KK. Dai, nel frattempo cambia il microfono, riprendi il buffet. Vabbè, ma io sono riuscito a cacciarmi che non lo graveremo. Oia. Sì, tra l'altro devo dedicarmi solo a quello. Adesso sto usando il suo microfono originale, Massimiliano. Mi dici come da te? È buona la radio, però preferisco l'altro, giustamente. Siccome stavo assentando della roba, ho spostato la scatola dell'apparecchio, ho trovato il microfono e te ci che lo collego un attimino per vedere. E niente, quindi adesso stasera uso questo. Sì, sicuramente questo è un microfono dinamico, quello è condensatore, quindi sicuramente spinge un po' di più, dai. Oh Massimiliano, allora questo è il microfono normale, sono sganciato, ok? Guarda com'è, stai attento perché aumenta la radio. La senti bene così? Vai. Allora, così è agganciato sempre col microfono normale. Ma vedi che non se ne sente più di droga. La calubba. Già lo so che non se ne sente. Microfono normale, va bene, vero già. È il segnale che vedi però. Ha voglia, sì, molto più pulito. Aspetta, cosa hai detto Dani? Ah, ti lascio questo microfono che è ancora più bello. Perché adesso c'hai tutto il segnale, non c'hai rumori, quindi è pulito, così è. Grazie Dani del consiglio, dai. Allora va bene, allora possiamo modulare anche con questo, perché giustamente non mi porto appresso nessun fruscio. Va bene. Vedi, anche lui in lontananza Massimiliano ha detto che va molto molto bene questo microfono. Vabbè, io te l'ho detto subito. Va molto bene, aumenta parecchio la radio ed è... sembra che stiamo volando in silenzio, capito? Giustamente il microfono amplificato, classe porta dietro tutto, già lo sai, no? Non è che te lo devo spiegare io. Si conferma, KK. Va bene. Positivo dai. Avanti, Rubofè. Eia. Se non dovessi attaccare io quell'attrezzo lì, quella boomerang, mi metterebbe la spada di Star Trek. per non sbagliare, sull'altro piccolo io uso le ispezioni, quelli piccoli, no? Quelli piccoli, qua mi sono preparato stamattina 4 spezzoni di H1000 con 4 anfeno PL buoni, e lo spezzone che va dall'amplificatore alla radio, quello da 1,5 metri della Kenwood che c'ha i cosi PL in vetro ad alta temperatura, vatti un gonto e tu non si sa mai. Una stufa inventa, una ricetta di una stufa. No, ma non scalda, c'ha 3 ventole sopra, che è una cosa pazzesca. Poi vicino alla finestra in fondo, è quasi 1,5 metri dalla radio, non è che... Però quando schiacci la portante, cosa succede? Che accelerano le ventole per raffreddare prima, se no è stand by, è silenziosissimo, ho capito già. Vai Massimiliano. L'ingresso è sempre 5 watt, eh? Sì, 5 watt. 5 watt, poi non lo so col microfono da palmo quanto può dare di picco, ma non penso, I picchi ci sono lo stesso qua, giustamente quello là amplifica leggermente di più, ma i picchi della radio sono quelli, non è che cambia molto. Là già va bene. No, non ne do di più Massimiliano. Poi aggiungo tengo anche il coppio. Già va bene, KKKK. Aspetta che ti faccio una registrazione, io ti ascolti. Vai, parla un po' a lungo. Infatti ci vorrebbe una registrazione giusto per capire com'è la mia modulazione, ma le mie corde vocali ancora già ce la fanno a spingere un pochino anche col microfono normale. Però rimane il fatto che anche il microfono del Galaxy è abbastanza selettivo e funziona molto bene. Questo è il suo originale, marcato Galaxy, quindi già va bene. Ok, vai, che buffet. Avanti che fischia. No, ero io perché c'è il segnalatore di modulazione sull'amplificatore, stavo guardando quanti LED accendevo. E tutti che ci viso più passa pure la traverra. Ah, io ci vedo le luci di gioco, allora. Quelle luci a LED, sai, quelle a filo. Quelle le accendo tutte, proprio il massimo picco di modulazione mi dà. Buono. Non hai provato, quando stai ascoltando a Daniel, a inserire il preamplificatore di antenna per quanto ti aumenta. Guarda se c'è ancora in linea e lo prova a vedere se ti aumenta un po'. Già fatto, da 7 va a 9. Beh, già aumenta allora, 20 dB aumenta. Sì, 20 dB, ho provato anche con voi, anche con te ho provato. E sì che mi ascolto, riprendilo, brofè. E quindi tutti con i droni in casa. Adesso avremo dai droni. O che no, che non si vuole andare a macconi. Non mangio drone io, no. Niente drone. Ascolta, come ti aspettando tu? La bella giornata per quello laggiù, se sarai. Sì, mi sto sistemando dell'altra roba qua e appena mi sistemo tutto bene, che mi sto riordinando un po' di cose, ne approfitto, mi libero bene la scrivania e lo faccio, dai, non voglio avere altre cose in testa, sennò magari faccio casino. Va bene Massimiliano, ottimo per la truppa, dai. Sì, a voglia, ce ne puoi mangiare. E poi all'ultimo stavo accendendo anche il senore per farti ascoltare anche lì, vabbè già mi sono ascoltato con quello che hai, già va bene. Positivo a capa brioscia, va bene. Si non ferma, dai. Oh, lo brofè, che tu drone non vedo nessuno a Sassari, tranne che Massimiliano. Gli ho detto che glielo stavo dicendo poco fa, che adesso siete partiti con i droni. Ce ne abbiamo due, ne abbiamo amplificatori uguali. Luia. Massimiliano, il K stai usando? Si sente la pigiata. Vabbè, allora la faccio da qua, così diversa, va. Cazzo, la nostalgia va giù delle gappa io. Già 15 di Cosenza, manco a vederlo davanti, speriamo che me lo mandi prima di fine mese. Non ce l'hai una foto? Infatti, ma già mi hai dato il voto che mi sono appiccato da un muro. E allora che ti batto che ti avanzano quelle? Cazzo. occupa. Sì, vabbè, che mi occupa. Vabbè, dai, posso staccare? La prova abbiamo fatto, come abbiamo, siamo durati con un microfono in mano, ma dai. Attacco l'altra, se no questa senza nulla, dai. Sì, attacca, attacca, non c'è problema. Va bene, ok. E tu, Roberto, cosa sei combinando? Niente, niente. Niente, Massimiliano. Per adesso, boh. Cosa vuoi che ti dica? Come per adesso? A chi? Per il nostro altro impegno. No, dico, per quanto riguarda adesso non c'è niente. È tutto, non si muove foglia. Ok, ma a me piace acero, cioè? Forse a Ugiro. È una cosa impressionante, ho proprio due freddi. Sono uscito stamattina a prendere due cose qua a Santa Maria e anche se c'era il sole pizzicava forte. Vabbè, pizzicava forte sì, c'è un po' di freschetto, c'è un po' di ghiaccio, c'è questo venticello leggero che proprio di bugni. Sì, a me è cambiato. E la sua che stacco però? Positivo il capo a brioscia. Non si è sentito nessun altro? Ma per il momento no, io ho acceso così, non c'era nessuno, ho chiamato e ho risposto Claudio. Tutto il resto lo può fare. Non c'è nessuno, ma a vendere niente, non ti preoccupare. Tutto c'è in bocco, Gio. Non lo so, poi il cazzo chiami e non risponde nessuno, no? Ti sposti tu di canale ed entrano loro, per carità. Non puoi scendere la canale, va a vedere la radio, cazzo. Oi, dai. Comunque, piccolo e nero, con la boomerang, ho fatto fatta, cazzo, 9.20. Adesso ci avrei messo la firma altre volte, dai. Oh, da Claudio. Claudio mi ha detto 9.20, piccolino, dai. No, 9.20 con picchi positivi, sì. Tanto, quanto regge di errato con la Bumag? Oh, forse un centinaio, Massi. Io uno da 300-400, lo vuoi approvare? Vai che non c'ho la struttura per fare una prova del genere, la futti di dirmi. Non c'ha più un radiale a posto d'ora. Ma attenzione però Masceglia, io mi ricordo Nello c'ha una boomerang, non è neanche come quella che c'ha lui, è quella nera, un po' più corta, e usava un legnale da 100 watt, ne dava un'ottantina. Guarda che se lui usa per dire un B300, io c'ho il foglietto qua, no? Che tra l'altro me l'ha fatto un amico con molta cortesia, quindi anche in terza, anche in quarta marcia lo puoi usare, un'ottantina di watt. Ma guarda che se lui aggancia un 747 lì, va benissimo, la boomerang lo tiene bene, l'RG58 lo tiene bene, perché poi fagliene via 80, ma fagliene via anche 100, lo tiene benissimo la boomerang, a voglia, mi sembra che tenga 200 watt, non tenga 250. Si conferma, infatti, mi sembra proprio che tenga una cosa del genere. Boh, adesso non ce l'ho a disposizione, comunque me l'avevo salvato il PDF delle caratteristiche, adesso non mi ricordo, non voglio dire stupidaggini, non ce l'ho qua a portata di mano, però boh, magari sarà 200 di picco e 100 continui, boh, non mi rammento. Ma il 747 è 100 continui, non te ne dà, e oltretutto 100 continui non è che deve stare cazzo minuti e minuti parlando, già lo sai che si fanno sempre passaggi da 20-30 secondi, o è che fai passaggi da 3 minuti, no? Eh beh, io sì, già li faccio abbastanza corti. Aspetta, la guarda dove tanto c'ha le cose, riprendi qua. Sì, sto ricollegando il wattmetro perché voglio vedere quanto è il massimo che posso dare l'ingresso all'amplificatore, però col wattmetro. Allora, qua nelle mie coordinate sicuramente è un servizio che c'è, che probabilmente è collegato alla stazione qua. Sul canale alfa, sull'11 alfa c'è a orari fissi, c'è una portante con dei suoni, non so, magari è collegato qua ai servizi qua della stazione ferroviaria, e ad orari fissi c'è una portante con con dei suoni. Boh, non so se voi, da voi arriva. Cosa c'è o ho detto che qua praticamente sull'11 alfa da me ad orari ben prestabiliti c'è una portante che va oltre Santiago 9 con dei suoni. Sicuramente è qualche servizio collegato qua con la stazione ferroviaria, perché è una cosa abbastanza ciclica, in determinato momento praticamente c'è questo segnale con dei suoni. Ecco, ecco. Allora 200 watt li tiene tranquillamente, capito? Allora mi ricordavo bene, dai. Era 100 continuo e 200 forse di picco, boh. No, di picco ne ha 450 e 200 continuo, capito? Quindi a voi, da 147, 100 watt alla grande. Ehi, ehi, ehi. Bene meda. Ti stavo dicendo, Massi, questa portante chiaramente va, io sono molto vicino e quindi la sento molto forte. Poi non so se riuscite a sentirla voi, se vi è mai capitato, ma non penso, boh. Perlomeno a me no, perché nel senso che a quell'ora noi non è che siamo nell'11 alfa, ma siamo sempre qua. Tu sicuramente, come hai detto tu, qualche servizio della stazione lì, capito? Sì, perché a determinati orari praticamente c'è questa portante con dei segnali, o che sia qualcosa collegato a qualche passaggio a livello, qualche altro servizio, boh, perché è orario, capito? In alcuni momenti della giornata proprio non c'è. Ho fatto caso a questa cosa qua, mi sono messo ad ascoltare per un po' e poi praticamente piano piano svanisce. Ascolta, dimmi l'orario che c'è, così ti dico se è una cosa dei treni, perché noi lavoriamo con le ferrovie, capito? Aspetta un attimino che provo, perché poco fa prima di entrare ho visto che c'era, adesso mi sposto un attimo sulle 10 alfa e te lo dico. Ok, andare, vai, Claudia. Sì, adesso c'è una portante muta però, senza suoni. Nell'11 alfa questo? Positivo. Grazie Massimiliano, senza watt metro, ero a 4 watt. Fate un voto, vinto watt. Adesso ho messo 8, modulati 10, se fischio ripassa, però sul parlato siamo intorno a 10 watt. Vabbè, ci vogliono degli aspettini, se no quello glielo puoi anche lasciare agganciato. Vabbè, comunque, dai. No, ve lo lascio stare agganciato, vediamo. Stazionali. Allora. Ush. Uno. Buono, va bene. No, Daniel, non mi dire che mi stai ascoltando così con 8 watt. Sì, chi è? Santiago quasi 6, Radio 5. Ciao Lima 1, buonasera, ben ascoltato. Da Ozieri, Santiago 6, Radio 5. Va bene, no, mi sembrava Daniel da Oristano. Sì, Massimiliano. Stazionari sono 1. Il set è giusto. Scala 10, 8 watt, modulati 10. Va bene. Mi fido. L'ingresso è 10, ecco. Era 7, boh. 8 scarso, dai. 7 e mezzo, così, dai. Poco più, non ci arriva 8, Però quando fischio... Aspetta, se ho l'accento. C'ho dei picchi allucinanti. Quando fischio una scala a 100 va a 20 watt. Così è. Bella è. Questa è bella la radio. 20 watt col wattimetro attaccato. Capito? È quello che mi dice anche il fruscio. E mi sicuri lo trovi a capo. Non fa niente, va. Così potrebbe andare bene. Non fa niente anche se c'è il picchio di modulazione, no? No, non è che il gatto uno non la ubica in modulazione. Ma voi già voi siete il cannon da radio, dovete il suo riparo. No, beh, lì già quando a Vittorio lo faccio riparare. Vabbè, bisogna stare attenti, però no, vedi, adesso questa prova l'ho fatta perché c'ho il wattmetro, te lo sai, e quindi va bene, se no non potevo regolare. Adesso so che praticamente a metà sono 8 watt, prima ero a 4 watt e mezzo, 5 watt, ero gridoghi, però già andava lo stesso. Sì, a voi, no, ma lì ci sono allineato la Siracusa, da Carletto, qui sono qua da Vittorio, qui sono dovuto andare da Sicilia. Grazie Sicilia, che ha pagato, però un bello strumento anche questo, eh. Ora, ora, ora, già va bene. Avanti Gianni Lombrofè. Eia, prendo la palla al balzo, ragazzi, mi devo spostare un attimo. Ci sentiamo tra qualche minuto, ok? Aspetta un attimino, Lombrofè, aspetta un attimo il radio. Claudio, vai nell'MC Alfa, guarda se c'è importante anche tu. Aspetta qua, Lombrofè, e vediamo se lui la sente. Sì, c'è un importante, quella è Lombrofè. Eia. Sì, ti deve essere qualche servizio collegato alle ferrovie, dai. Io non abbassa già i villi, mica, ma è un casino. mi non passa sotto, mi già. 11 alfa dove siamo? 27, 0... 95. No, 95. Ehi, 95. Aspetta, vedo un po' se la sento anche io. No, da me non ce n'è. Io non la sento. Vabbè, tu sei fuori zona, sei fuori Sassari, noi che siamo dentro Tattari già la sentiamo. Sì, ma qualcosa che c'ha lui lì è forza. Sì, beh, se gli arriva un bel forte a Gianni, è così. Ci verrà stato bombolino e ti aggoggia. Quindi Clara, senti anche tu? Sì, Santiago 4. Vabbè, qua arriva, da me arriva molto forte, perché sicuramente è qua vicino. Comunque, a seconda degli orari c'è una portante muta, oppure ci sono dei segnali dentro, capito? Quindi è sicuramente qualche servizio attivo qua, delle ferrovie. E si conferma. E non li puoi disattivare più questi servizi già. Se ne abbiamo abbassa portatore. A me esigibili, tu hai dovuto abbassare i guardi. No, ho alzato gli occhi e sul tetto ho visto che c'è un'antenna, credo che sia una mezz'onda, boh, comunque c'è un'antenna, sicuramente sarà collegata anche a, insomma, ci sarà collegato qualcosa per determinati servizi, dai. Ecco, sì, vabbè, va. Non fa niente. Avanti, qua. Ci conferma, K del Rogero, già va bene, ti stai allontanando già, stai andando da qualche parte. No, mi devo spostare qua a casa, che devo sbrigare un paio di cosette, dai, per i miei, quindi, dai, mi allontano, ci sentiamo tra qualche minuto. Non bisogna sbrigare, ci credo. Ah, mi lascia andare, sì o no? Dai, vai tranquillo. Ehi, va bene. Ma è Luca Flipper che ha fino a fatto. Ancora mandando le fotografie. Ha mandato poco oggi il voto. Di radio, di microfoni, di teche ballacche, di girimella, di catturi biondi. Sì, catturi bieni. Ma ce l'ha entrato, va, ce l'ha l'ascolto. Ma non sta facendo cosa. Sì, ed è sempre vendigosa. Furugente su internet a vedere dove può fare i soldi. Su internet? E allora, compra, vendo e scambio. E allora bisogna che ci mettiamo d'accordo a vedere se lo possiamo fare anche noi. Sì, e un po' di soldi da investire già ce li ho. Basta comprare e vendere, solo se la vuoi d'inculani, è un problema. Finiscono i fondi, le mobiliate in gomma le vostra mano. Grazie a ritare i fondi, che buoni servizi, a usare, che c'è roba seria. E certo. Cosa c'è? Polpa di ricci, cosa c'è? Sì, c'è un poco di tutto. Vabbè. Sta attento, Barome. L'importante è che non vi sia turno, Ah, tranquillo, vi posso un po' fiago di fava, ma non è nulla. Vabbè, fiago di fava l'accetto, però se poi devo rimanere un mese mangiando attorno, allora no, No, tranquillo. Tu adesso dato il periodo, capito? Vicino ce ne possono fare, beh, vabbè. Adesso domenica se fa bella giornata, domenica mattina deve scendere un po', vado a farmi due lanci con la canna a pesca, va, se vuole. E io l'avevo tutta preparata, pulita, di nuovo si massarla, perché poi col Covid, la schiena, balla e poi va. Mi dice invece qualche domenica mattina ci andiamo a spare, Jimmy. E la lavagna. Ah, è vero che tu non le mangi, bisogna andare con Luca, bisogna che mi porti a Luca allora. A fare un po' di asparagi. Guarda qua, dove sto lavorando io a Ruschi, non me la pigliano a fare di bene, ma brutti un bel. Tu pensa, gli autisti fanno di tutto a fermarsi lì all'ora di pranzo, si mangiano una cosa a loro. Ma ah, tutti ne fanno una bella maturata, stai dicendo che ce ne sono un bel. Raggio, vabbè. Gappa. No, Cosio, il figlio di Capri è andato, aspetta che lo regolo bene, il figlio di Capri è andato a, così glielo stacco poi questo wattmetro, è andato lì nella zona di Osci, quelle zone lì, ma guarda, mi ha mandato le foto, giusto per farmeli vedere, ma ne ha fatto un casino, un bene ne ha fatto. Li ha messi anche a Facebook, una cosa che sia. Dice, chi si è maturato, ha andato in 20 minuti, gli dà. Solo che alla fine uno non è che ti esce un casino, ma non è maturato all'asparagio, capito? E va lì in zona di Russi, Muro, Scargere, quelle zone lì, quelle campagne, qualcosa che si trova. Ah beh, già le trovi sì, ha voglia che le trovi. Ma ha detto lui che già ce n'è in quella zona. Ehi, la gappa. Mia, Flipper. Fiamme, aspetta un attimo, guarda se tutto a posto, ICOM, qua siamo 706, KK, stavo provando il microfono originale. Questo è il microfono originale? Ehi, aspetta, guarda se tutto a posto, qua, ok, sì, questo è il microfono originale, qua. Sono andato, voglio lasciarmi 20, Massimiliano. Sì, ciao Lu, sì, no, va benissimo. No, qua, perché non ti ho più capito le connessioni. Ah, sì, hai rifatto quel lavoro là, sì. Sì, che è questo qua, col microfono normale, gappa. No, già amplificato, perché io avevo sentito Emanuele Ginko, si scriva come un microfono amplificato. Mi serve di solito, ti aggiunto, mi sembrava le serve 20. Ma forse più bene anche le 60, con questa radio. Sì. No, non c'è più niente, capito, da tavolo. Ma poi, il microfono è a manetta. A 5. Ma prova a aumentarlo leggermente, tipo a 7. Aspetta, anzi a 6. Così a 7, così a 8, 9, 10, KK. Ma ce l'ha 8. A 8, 10, 9, 8. Ok. Perché c'ho dei picchi allucinanti. Sto di Amascio va bene, io non me lo ricordavo. Hai fatto tanto casino, basta usare il microfono normale, scusa, esce benissimo. No, mi piace il microfono normale qua in casa. Esce no, ma mi può fare, ho usato quello del Galaxy, ma non mi piace, io voglio il microfono a tavolo. Comunque esce molto bene quello. Perché gliela devi rimandare? No, devo mandare nulla. Non devo mandare niente, no, l'ho riattaccato così, capito? Va bene. Gappa, magari informa Massimiliano dei lavori che stai facendo, ma me l'hai già detto. Avanti Massimiliano. Cos'è? Ha fatto informare da Luca dei lavori che sta facendo lì, dei microfoni, di quegli spostamenti, a me l'ha già detto, ma non me la metto più. Ehi, vabbè, non è un problema. Va bene, il prefetto è in uscita, va. Ah, Fimaro 3 non è andato. Ehi. Se esce bene, la mia cazzo normale, così esce bene. E adattatori non ne hai, per altri microfoni da tavolo per quella radio, vero? Altro il 20? No. Mi tocca rifare tutto, capito? Mi tocca rifare tutto, aspetta, ne uno, ma mi sembra che questo è dello Iaesu di Claudio Porto Torres, aspetta, mi mari, Ma scusa, quello che ti ho dato io, ti ho dato il clipato 706 SM20 diretto, poi te ne ho dato un altro, che è di raggio, si è attaccato tutto, non l'ho aggiunto io, la ICOM a Kenwood e poi non gli altri. Eh no, quello che mi ha dato tu non va bene, Ocla. Quello sì, va bene solo per l'SM20 però. Ma l'SM20 lo sai che ho messo direttamente l'altra connessione, capito? Per non usare l'adattatore, siccome adesso questo non lo sto usando, cosa me ne fotti l'adattatore, ciambaba, chino, uno li voglio drattare, boh, di radio, questo l'ho messo, adesso giusto per provarlo di nuovo, lasciarlo in ascolto magari, capito? No, va bene, ottima radio. Riprendi Massimi che ne stacco questo wattmetro là, perché sennò poi se capita non posso attaccare il drone. Vai tranquillo, non è un problema. No, va bene lui, così con il microfono normale, poi che non posso infatti da trattarlo con il microfono normale, la cosa è male. Infatti, adesso ti mando la foto del tipo di microfono. Allora sono un bel bene, però ho detto, io ho sentito a Ginko, dici ma una cannonata, e non pari a manco con un microfono normale. Gaffa. Ma quello là è partito, così è? No, il 16. Va bene, va bene. Il 16 è giovedì, venerdì, così è? No, il 16 è martedì. Martedì, è vero, Oggi è 14, domani è 15, hai ragione. Mi guarda la foto e ti ho mandato, questo qui che sto usando adesso. Sì, ma tu non avevi uno simile della Midland? Sto sbagliando, perché è ancora più piccolino di quello. Sì, no, ma poi c'ho anche gli altri, quelli del coso, dei portatili. Sì, c'ho anche uno della Midland, se non sbaglio, proprio più piccolino. Mi pare di una buona donosa che si è portato, che non usciva, vuol dire? L'ha comprato, dai. Me la metto, poi ne ho comprato altri due, per il portatile. Ma l'ho trovato la nuova nuova, ma l'hanno dato perché dice che bisognava dare un colpettino per uscire. Ma io l'ho portato qui, e ti ho buttato dentro la cassetta, che c'ho tutto il microfono, le cuffie, tutti i pezzi, qualche radio, e roba così, no? L'ho giocato io e la buona di tutto, tanto più già riusci. KK, sto facendo il video. Una cannonata. Certamente sì, è l'ultima radio, sto uscendo veramente bene, sì, dovrei farlo un video così vedono anche, capito? Adesso ti mando una foto e ti scrivo una cosa. Allora, microfono originale, ecco qua. Eccomi. Me lo puoi dire anche qua a me, solo il prezzo. Ma a me sei certo? No, a Luca sto dicendo. Va bene Luca, sì, sta andando bene. Hai visto quanto è piccolino il microfono dell'originale del 706? Io ce l'avevo in macchina, ma non sai quanto è comodo, esce un bel bene. Solo che già c'ha ragione anche lui, quando sei a casa, non è che fa cosa, puoi capitare di come fa cosa in mano, capito? È meglio se ha un microfono a tavolo. No, non li sopporto io. Oh, assolutamente, a me il microfono a palmo mi irrita. No, vabbè, io è questione anche di abitudine, io sulle 9 c'ho solo quello da palmo, diciamo, Abbiamo molto poco di pagatore, sono quello lì, non è che cambio. Capo, e questo com'è? No, dietro vai un canarino, Davide. Che siamo? Non mi mandate molti video che ho la memoria piena, Te li devo guardare e poi li devo cancellare, purtroppo. Insomma, sì, posso parlare anche con l'Inuit, sì, va bene lo stesso, Così lo mando un pochino a riposo, sto Galaxy che dal tamale atteso. Ehi, tranquillo, non c'è problema. Ma tu ti ricordi quell'aggeggio mio che avevi provato? Quello bianco, che dice che non funzionava, invece poi funziona. Quanti canali ha, tu lo sai? Quello ha 16 canali più canali di emergenza. Ah, 16 canali, Sì. A posto, va. 25 watt e 5 watt. Buono, va bene. Cazzo che funziona, alla grande funziona. Se non rimuovi un microfono, ben funziona. No, ma questo c'è anche, come si chiama, deve tirare fuori lo squelce, così è? Esatto. Fatemi sparami. Ora adesso sta fischiando. No, adesso no. Magari si aumenta, non lo so. Si solamente mercoledì, magari può farsi. Sì, sì, al limite. Vero. Via. Ma non mi piace questa la modulazione lui però, eh? No, sto provando un microfono, se metto l'altro. Sai, questa rimane un po' barattolosa, rimane. Oh, e questa degli inuiti, bene, ma. Meglio a casa, questa supera il Galaxy. Che delusione, che delusione sul danno più 3, porca paletta, un MB più 4 con un baracchino 23 canali in Romagna, che delusione. Bella! Allora, andiamo di sciure, Massimiliano. No, meglio è questo. Ho fatto anche il bombolino, ciao a tu. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, il mio ho appena acceso. Sono oggi tutto il giorno in giro. Ma quanto vai andare in giro con un drone? Ma butto un raso con farado. Con che sto freddo? Vabbè, tu vai a Gottenna, non ti vas in onda. A Gottenna vai tu. Ah, tu sei più grosso. Vabbè. A Gottenna vai, bubu. Nel senso non ti fa niente il freddo, mi ci abituato allo freddo, a compreso. La mano di capo sogo. Ui ui ui. Oggi a San Valentino ho portato un po'. Abbiamo festeggiato nel nostro modo. Capito? Hai capito Tio? Ma sai cos'è il mal di testa? È freddo tu. Io sono uscito stamattina e sono rientrato. Allora di pranzo sono uscito in macchina, però lo fermo a Piazza dei Segni parlando con delle persone e sono entrato a casa e mi facevano male sotto gli occhi, capito? Quindi è freddo, troppo freddo c'è oggi, troppo freddo. Avanti Massimiliano, poi ti faccio sentire il drone, a tu. Cosa è il tuo drone? Spiega, vero Massimiliano? Ci ha comprato il drone, coso, Claudio. Ma chi da aereo che vola? Sia, come schiaccio la portante, ci muovi in moto, oggi mai ti ci do la cosa. Che marazzù si è? Boh, lo lascio io. Guarda il segnale così come mi guarda. Lo vedi il segnale? Quanto è il segnale? 9.40. 9.40, così, ammazza. Con questo Inuit. Adesso ti attacco il drone, guarda, cambio radio, Muovili. Ora. Quasi 9.50. Tanto marazzo si nai. Si sente il drone, per vento non lo senti. Eia. Questo è il drone, questo è l'elicottero si chiama, l'elicottero. Vero consiglio? Prova. Guarda, vedere. 1, 2, 3, 4, 5. No, fai lo stacco e l'attacco che ti ho attenuato. Aspetta, Così è staccato, attenuato, guarda per quanto è il segnale. 8 watt. Così sei al limite del 9. Ma Claudio, devi fare in diretta, però, devi... capito. Allora, in diretta dello vostro, lo pulsante, con la BTT schiacciato. Matto, sì. Mio si va vedendo di un 747. Che ti faccio un interruttore, mi si cura la macchina. Lu, guarda a vedere adesso quant'è. 9.10. Luca. Eia. Non mi rispondi. Non l'ho trovati, non so neanche dove cercarli. Pittina, mi dà zingosi, dopo i 6 anni mi ripongo. No, dopo di 1 anno e mezzo, non 6 anni, 1 anno e mezzo. Se puoi immaginare, 1 anno e mezzo, già giocuti che sei in soffitta, mamma mia. Cazzo, ma vai un appartamento, non vai un capannone tu. Aiuto, cazzo, devo aggiustarlo quel portone. Lo compro io, se l'ha da me lo compro io, la stiamo di Dani, no, la soffitta tanto la buceremo con il posto. Se vuoi immaginare una cosa si minoretta e di la borsa ci fai. Tutto sta scizza. Cazzo minoretta. Non è piccola, no? È una cosa normale. Cazzo sono due cose, non una, due. Cazzo ho chiesto il favore di tenerle, cazzo, me le fatti fare. Non so dove cercarli, capito? Adesso domani guardo cerca c'è fuori, boh. Non so dove cercare, tu hai toccato, c'è un appartamento lì, non c'hai un capannone. Il capannone da noi, se tu mi chiedi una cosa, io vado e te la trovo subito. Ed è grande come capannone, non è una, un appartamento. Ma c'ho fitta da me, peggio di un capannone, io lo so. Cazzo, avevo lasciato questa roba per proprio per tenerla tu, cazzo, che c'hai più spazio. Cazzo, le fatti pari, la bagaglia tu, cazzo. Chi ti zipparia, ho bisogno di zipparia. Magari. Dani, quanto ti sta arrivando a Sant'Orso, così, con l'elicottero acceso? Guarda a vedere. 9.40. Così lo dicia, già va bene. Ma le eliche vogliono un pochino più basse. Cosa avete in faccia? 3 sono eliche, 3 pale c'ha questa. L'altro che aveva ne aveva 2, anzi 1, questa ne ha 3, cosa devo fare? Gliela taglio. No, più basse vogliono, si sente il fruscio. Ciao Dani. Cosa, Massimilia? Non basta appena appena il micchigli della radio, ho del microfono. Guarda a vedere, così ho abbassato appena appena, meglio va. Ma cosa ha abbassato? Il microfono o la radio? No, il microfono. Abbassa la radio invece del microfono. Aspetta che la metto in terra. Poi in terra, guarda che allora, aspetta che lo spengo. Era giusto per farlo sentire Antonio, dai. Bomboli, bene va. Ah, quindi l'ho crepato a Claudio. Che sono di ore. Glielo dico. Vai, no. Ehi, ciao Tino. Lo so, la ganga, sono rientrato me. Lo vedi, a mangiare giù. No, sono andato a Medo a consegnare circa 20 giri di quella roba. E poi abbiamo mangiato lì. Ah, c'è tua cognata lì a Medo. Ehi, rientrando mi sono fermato lì. Kappa. Avanti, Bombolì. Bene, va, lo posso staccare, Bombolì. Va benissimo, va. Già pompa. Aspetta, Massimiliano. Sì, chi è? Quanto ti sta arrivando, Claudio, lì? 9, quasi 35. Là già pompa. Non lo so se pompa, devo spingere ancora, cosa ne gioco io? A 40 non ci arriva, Massimiliano. No, non ci arrivi a 40. Lattino invece quasi, no? Sì, però con l'altro, con questo è Alvaro. E io, Massimiliano, questi sono, sono neanche 200, 30. Cosa vuoi di più? Ma noi siamo vicini. Comunque tu c'hai una buona posizione, Pino. Capito? C'è una buonissima posizione. Ma cosa? Stavo guardando, dal tetto di Walter. Dove sei tu? La tenoce e dove sono io? Ma per carità. Si vede dal tetto di Walter alla casa mia. A te ti becco in pieno lì, ma io non ci vedo dove sono io. Perché tu sei sotto. Dai, cambio di nuovo radio, la solo per farla sentire al Bombolino, dai. Secondo me cambio. Avanti, da lì. Ah, e lascia questa che già va bene. Bombo, signore, dai, se coincide più tardi che mi devo scaricare la macchina. Ciao.